in diretta su CRM Happy Radio Deja Vu con Mary Catalano. Vi vedo, vi vedo anch'io, so che ci siete, non è vero, non vi vedo, però vi sento, sento la vostra presenza. Buongiorno, ci sono anch'io però, io ci sono e questa è CRM Happy Radio, la radio che state ascoltando, e l'appuntamento è Deja Vu, come al solito, per chi non lo sapesse, il martedì e il giovedì insieme a Mary Catalano, con questo appuntamento di due orette circa che vi porterà tanta buona musica nelle vostre case, nei vostri posti di lavoro, nelle vostre automobiline, dovunque voi siate. Noi entriamo nella vostra testolina con la musica soprattutto, e vi teniamo compagnia se volete, e anche voi potete interagire naturalmente come al solito ai nostri mille modi che avete a vostra disposizione appunto per avere questa interazione fra di noi. Allora subito ricordo i numerini: il 335 56 37 251, il numero per gli sms, e non dimenticate il numero telefonico, lo 0921 92 32 92, e poi www.crmradio.it, il sito internet di CRM dal quale ci potete sentire anche in capo al mondo e in streaming naturalmente, e magari curiosare all'interno del nostro sito e vedere anche gli appuntamenti vari di CRM Happy Radio in podcast se volete. Ma pensiamo al momento, pensiamo a questo momento. Oggi è giovedì 28 febbraio, abbiamo già concluso anche il mese di febbraio, lo stiamo concludendo, nel senso che oggi è l'ultimo giorno di febbraio, ma ci pensate che stiamo per entrare nel mese che ci porterà dritti dritti alla primavera? Ma è una cosa straordinaria dopo quest'inverno così arido, così freddo. Oggi c'è già nell'aria qualcosa che ci porta i profumi primaverili, già gli alberi si coprono di foglioline, ci sono i mandorli in fiore. Ci stiamo avvicinando alla bella stagione, siamo proprio contenti di questa cosa qua, e allora allietiamo il tutto con la musica che va avanti con Shakira. Ancora buongiorno e bentrovati, siete su CRM Happy Radio, se ancora non l'avete capito, ma credo proprio che non ci si può sbagliare, ok? Allora andiamo con la prossima canzone, vai! Whenever, Wherever, una di quelle canzoni che ci riporta un po' all'estate, no? Ci fa pensare appunto alle feste, al divertimento. Shakira che si muove con quella sinuosità e con quel suo bacino snodabile, era questa canzone che abbiamo ascoltato. Musica italiana. Guardo per l'ultima volta mentre vado via, ti ascolto respirare, non scatto la fotografia, non porterò nessuna traccia dentro me. Niente che dovrò rimuovere. Se hai giocato è uguale, anche se adesso fa male. Se hai amato era amore, non è mai un errore. Sentirti e tenerti vicino, anche solo per lo spazio di un mattino. Ti guardo per l'ultima volta mentre vai via. camminare e come per magia non sarai pensieri, non sarai realtà. Sai che bello, sai che felicità. Se hai sbagliato è uguale, anche se adesso fa male. Se hai amato era amore, non è mai un errore. Era bello guardarti e tenerti per mano, o anche solo immaginarti da lontano. Che solo per lo spazio di un mattino entrerò nei tuoi pensieri di una notte che non dormi e sentirai freddo dentro. Entrerò dentro ad un sogno quando è già mattino e per quel giorno tu mi porterai con te. Non è mai un errore, era bello sentirti e tenerti vicino, anche solo nella luce del mattino. Se mentito è uguale, ma ora lasciami andare. Se hai amato l'amore, non sarà mai. Solo per lo spazio di un voglio salutare e ringraziare tutti quelli che già stanno interagendo tramite gli sms e stanno richiedendo dei pezzi bellissimi come quello che abbiamo appena sentito grazie a Lucia che ci ha segnalato appunto Raff con Non è mai un errore. E noi stiamo già pensando alla primavera, alle stagioni calde, e invece comunque ci dobbiamo aspettare ancora un po' di maltempo. E dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta giovedì scorso su Catania è stata lanciata una nuova allerta naufragi per sabato prossimo in Sicilia e in particolare nella provincia etnea. Secondo il meteo, da venerdì un piccolo ciclone mediterraneo colpirà la Sardegna con temporali violenti sul Cagliaritano, Oristanese e altri posti in Sardegna, diretti in serata verso la Sicilia. Naturalmente questi temporali a partire dal Trapanese e da Agrigento con primi locali nubifragi. Poi nella giornata di sabato a quanto pare sussiste il rischio concreto di nubifragi sulla Sicilia e di nuovo sul Catanese. Nel Catanese sarà la zona più esposta al maltempo. I temporali raggiungeranno quindi la Calabria nel corso della giornata, quando forti temporali si abbatteranno sulla regione con estrema violenza fino a sera. E questa non è sicuramente una buona notizia. Sebbene sia ancora impossibile prevedere con esattezza le cosiddette bombe d'acqua, ovvero temporali che in poche decine di minuti scaricano tutta la pioggia che normalmente cade anche in uno o più mesi, la configurazione meteorologica potrebbe rivelarsi pericolosa per alcune zone della Sicilia. La bomba d'acqua, che giovedì scorso in poco più di un'ora ha messo in ginocchio Catania, lo sappiamo tutti quanti, provocando 12 feriti e ingenti danni a numerosi esercizi commerciali del centro storico, ha avuto uno strascico di polemiche tra il Comune e la Protezione Civile Nazionale. Il sindaco Stancanelli aveva infatti lamentato la mancanza allerta meteo, ma da Roma, stizziti praticamente avevano replicato che il bollettino era stato diramato e indicava criticità ordinaria. Insomma, adesso ci staremo un po' più attenti, no, a questo fatto, quindi ci dobbiamo aspettare un po' di maltempo, soprattutto nel catanese, come dicevamo. Vediamo un po', speriamo che non succeda niente di grave e che si prevenga questa volta in maniera abbastanza predominante. Intanto andiamo avanti col nostro appuntamento, c'è la musica di Rafael Gualazzi, lo sentiamo col singolo che ha presentato al Festival di Sanremo, ovviamente, la canzone si chiama Sai, ci basta un sogno. Ancora un buon ascolto e un buongiorno a tutti voi che vi siete soltanto da qualche minuto sintonizzati con noi, siete su CRM insieme a Mary Catalano. La danza è immobile, scopre i tuoi fianchi il vento, e nei giorni ogni momento vorrei percorrere le tue volute velleità. Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso. E allora sì, avrei saputo credere. Posi libera nei sensi, la luce mormora dalla finestra stanca. Tensione dei silenzi sembra descrivere ogni tuo sguardo perso. Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia. Avrei sfondato le porte ipocrite di un paradiso. Avrei toccato quell'anima che vive dentro te. Sai, per sopravvivere ci basta un sogno. Sai, oh sai, per sopravvivere sogno, sai. E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima. Ogni tuo sorriso sentirai una forza dentro te che vince ogni limite. Sai, per sopravvivere ci basta un sogno. Déjà vu su CRM Happy Radio. Sono l'uomo più semplice che c'è. Sono l'uomo per te. Sono l'uomo di questa sera, sono l'uomo di primavera. Facciamo bene a stare insieme stasera, facciamo bene perché è sabato sera. Facciamo bene, facciamo perché c'è l'occasione e l'atmosfera. Sì, facciamo bene perché siamo vivi, domani chi lo sa. Sono un uomo vero, sono un uomo solo. Sono l'uomo di questa sera, sono l'uomo di primavera. Facciamo bene a stare insieme stasera, facciamo bene perché è sabato sera. Facciamo bene, facciamo perché è l'occasione e c'è l'atmosfera. Sì, facciamo bene perché siamo vivi, vivi, vivi. Domani chi lo sa. Semplice che c'è, sono l'uomo giusto per te. E Vasco Rossi a CRM Radio, grazie a Leonardo che ci ha segnalato l'uomo più semplice, il singolo che abbiamo ascoltato all'interno di Deja Vu. Ancora buongiorno, siete insieme a Mary Catalano, lo sarete fino a mezzogiorno. E per tutti i ritardatari e tutti gli smemorati, ricordo che oggi scade il termine di iscrizione alla scuola online. Scuole accoglieranno domande anche in ritardo, pensate. È fissato per oggi, dunque, l'ultimo giorno, oggi giovedì 28 febbraio, il termine di scadenza per iscrivere online i propri figli a scuola. Il sistema di iscrizione online era partito lo scorso 21 gennaio, dando il via ad una novità che per alcuni ha rappresentato una comodità, per altri qualche problemino. Non tutte le famiglie italiane infatti hanno dimestichezza con l'uso del computer, tanto da riuscire a seguire le procedure di iscrizione tramite web dei propri figli a scuola, e né tantomeno tutti gli italiani sono dotati di una connessione internet per poter effettuare la nuova procedura. La nuova procedura consiste nell'inviare tramite mail alla scuola prescelta l'iscrizione del proprio figlio. Bisogna necessariamente registrarsi al sito web www.iscrizioni.iscrizione.it e inviare il modulo elettronico predisposto dalle scuole, che invieranno per email la ricevuta alle famiglie. Questo ovviamente lo Ricordo a tutti quelli che ancora non l'hanno fatto. Stessa procedura online di iscrizione dovranno seguire coloro che si iscriveranno alle scuole superiori. Chi non può effettuare questa procedura perché è sprovvisto di una connessione a casa o chi incontra problemi nell'eseguirla ha ancora oggi a disposizione per recarsi presso gli istituti prescelti, dove ci saranno addetti scolastici che aiuteranno i genitori ad effettuare la procedura via web. Almeno come prima esperienza, insomma, quest'anno ci vuole l'aiutino, no? In questo senso. Ma nei giorni scorsi il Ministero ha comunicato che alla scadenza dei termini le scuole potranno comunque accogliere le domande di coloro che sono in ritardo, per cui non ci sono problemi casomai se scappa oggi. La sperimentazione online sembra comunque andata bene e quindi mi sa proprio che ormai andremo sulla scia di questa novità, insomma, per quanto riguarda iscriversi a scuola, iscrivere i propri figli a scuola. Ok, intanto arriva Malika Ayane, un'altra bella canzoncina. E se poi capissi che tutto quale è prima e come prima mi sentissi inutile, io non ho mai pensato se anche l'abitudine è un bel posto per ritrovare me. Di noi ho ancora quella strana voglia di sentirmi sola, senza di noi, ma non da ora, se non altro per vederti andar via ancora. Il tempo tu restami un po' addosso. Malika Ayane, che si è fatta bionda con questi capelli cortissimi che in questo periodo si usano tanto, è spuntata al Festival di Sanremo con questo singolo che si chiama S e poi, che abbiamo ascoltato all'interno di Deja Vu quando sono le 10:47 minuti. E ci sarà Mary Poppins ad accogliere i bambini sul treno Italo, già, proprio lei, ma sarà una Mary Poppins versione moderna, molto funzionale e soprattutto che ha messo da parte la scopa per viaggiare sul treno. Niente bacchetta magica, infatti, è piuttosto un pratico kit di giochi per far passare il tempo di un viaggio lungo come Roma-Milano o Milano-Napoli, ma anche semplicemente Roma-Napoli. Insomma, Mary Poppins sarà sempre lì, discreta e a vegliare sui bambini che non possono viaggiare accompagnati da un adulto. Questa è la novità. È un servizio nuovo per la rete dei treni Italo Junior, quello pensato da NTV, partirà adesso, praticamente il prossimo 15 marzo, e sarà disponibile per ragazzini dai 7 ai 13 anni e si svolgerà sui treni in partenza dopo le 8 del mattino e prima delle 8 di sera. Una bella iniziativa, facile da organizzare. Bisogna contattare il servizio del Contact Center Pronto Italo e lo si può fare fino a 7 giorni prima rispetto alla data della partenza programmata. Si chiama il Contact Center e si prendono accordi con la Mary Poppins, tra virgolette, di turno. Insomma, questa è una cosa che può tornare davvero molto utile. Il ragazzino verrà quindi preso in consegna alla stazione di partenza e poi restituito alla stazione d'arrivo nelle mani della persona che è stata segnalata al momento della prenotazione. Il servizio di Mary Poppins varia a seconda della lunghezza del viaggio. Costa 30 euro per il tratto di viaggio Roma-Napoli e 60 euro per tutti gli altri collegamenti. Bisogna tenere presente tuttavia che ai piccoli viene riconosciuto uno sconto sul biglietto del treno, che è del 25% sull'offerta base e del 50% sull'economy. Sul treno i ragazzini che viaggiano sul club di Italo Junior potranno avere a disposizione il kit di giochi con tanto di album da colorare, un portachiavi, il ricordo del viaggio e anche una spilletta a forma di leprotto. È un servizio che per adesso parte in forma sperimentale, questo dei ragazzini con le loro Mary Poppins come angeli custodi. Per questo la società NTV del treno Italo ha deciso di limitare le accoglienze nel primo mese del servizio. Infatti sarà possibile far viaggiare su ogni treno un solo minore da accudire e da far giocare. Sono state le tante richieste ricevute a spingere la società del treno Italo ad organizzare questo servizio per ragazzini senza accompagnamenti e di adulti. Insomma, una cosa davvero interessante che, se funzionerà, insomma, poi si evolverà, insomma, si dilagherà, insomma, un po' in tutta Italia, perché secondo me potrebbe tornare utile, come dicevo prima, e potrebbe davvero funzionare e dare una mano. Intanto noi andiamo avanti, sì, con la musica, e arrivano i Guns Roses, che ci piace ogni tanto ascoltare con questo singolo che si chiama Since I Don't Have You, qui su CRM, quando mancano 10 minuti alle 11. Ancora ben trovati a tutti quelli che soltanto da qualche minuto si sono sintonizzati con me. Siete all'interno, come dicevo, di Deja Vu, con me, Catalano, con voi fino a mezzogiorno per questo giovedì, diciamo, abbastanza discreto meteorologicamente parlando, non ci possiamo lamentare, ma attendiamoci un po' di maltempo, come dicevamo prima. Magari qui nella provincia di Palermo un po' meno, però se siete nella zona catanese, vi raccomando, cercate di prendere le giuste precauzioni, perché arriverà un bel acquazzone, mi sa, anche questa settimana, purtroppo, e vedremo di prendere le giuste misure questa volta, no? Desire. Déjà Vu su CRM Happy Radio. Canzone che mi piace tantissimo è proprio quella dei One Republic, If I Lose Myself, il nuovo singolo per loro qui su CRM Happy Radio. Attenzione, attenzione, perché Bata, la famosa griff svizzera di calzature e abbigliamento outwear e casual, è incappata in questi giorni in una spiacevole vicenda che ha causato un grande allarme tra i suoi clienti. Ha dovuto infatti ritirare dal mercato 4 modelli di scarpe perché tossiche e potenzialmente cancerogene al contatto con la pelle del piede. Ai ai ai. La vicenda ha destato naturalmente notevole scalpore perché Bata è famosa per l'alta qualità delle sue creazioni e finora sul mercato ha sempre goduto di una reputazione di ferro. Ora però l'azienda svizzera punta ad arginare lo scandalo, sottolineando che si tratta di un caso isolato che riguarda solo 4 modelli di scarpe, ma la vera entità di una presunta intossicazione che potrebbe aver procurato ai suoi clienti resta tutta da verificare. Intanto cresce l'allarme per la salute via via che affiorano nuovi dettagli, e test effettuati nella Svizzera italiana e a Como dalla rubrica per la difesa dei consumatori, hanno infatti rivelato la tossicità della reazione chimica che si verrebbe a creare dal contatto prolungato della pelle della calzatura contaminata con il sudore del piede. Da qui la decisione presa qualche giorno fa proprio da Bata di ritirare dagli scaffali alcuni modelli accusati appunto di contenere tracce di cromo 6, che è praticamente un prodotto altamente tossico e cancerogeno che serve a conciare le pelli. Secondo Bata, le tracce rinvenute di cromo 6 non presentano alcun rischio perché i tassi di presenza di questo prodotto sarebbero, secondo test privati effettuati internamente all'azienda naturalmente, decisamente sarebbero inferiori ai limiti internazionali ammessi. Intanto però, per precauzione, sono già 4 i modelli, come dicevamo prima, che Bata ha ritirato dal mercato, e a tutt'oggi non è dato sapere di che modello si tratti e se faceva parte della scorsa collezione invernale ormai in saldo o di quella nuova estiva appena arrivata nei negozi. Insomma, sappiate che c'è questa complicanza, quindi se entrate in un negozio Bata devo dirvelo, cercate di capire bene cosa comprate, ok? Questa è una notizia di 2 ore fa, quindi fresca fresca. Intanto noi andiamo avanti con il nostro appuntamento, ancora le vostre segnalazioni a farla da padrona, naturalmente i vostri desideri musicali sono sempre al primo posto, ed ecco che non poteva mancare Marco Mengoni. Salutiamo Patrizia che ci segnala L'Essenziale, naturalmente l'ultimo singolo splendido. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare, beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi, di far la guerra e ambire poi alla pace, e nel silenzio mio, annullo ogni tuo singolo dolore, per apprezzare quello. Ho saputo scegliere, e mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Accetterò un altro errore di valutazione, l'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero poche stupide. Nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini. Tornerò all'origine, torno a te che sei per me. Dai, è bella, non possiamo dire che non è bella questa canzone, eh? ormai la stiamo già cantando tutti quanti a squarciagola, la sappiamo benissimo tutti a memoria, questa canzone di Marco Mengoni che ha vinto al Festival di Sanremo, come sapete. Arriva Anastasia adesso con I Can Feel You, sempre all'interno di Deja Vu insieme a America Talano, con voi sino a mezzogiorno. Una grande artista, Anastasia, scusate, sì, una grande artista, una grande voce, abbiamo ascoltato I Can Feel You, però vi devo dare delle brutte notizie che riguardano proprio lei, perché vi ricordo che nel 2003 ha avuto dei problemi con un tumore al seno, un cancro, e purtroppo c'è una ricaduta. Anastasia è stato diagnosticato ancora una volta un altro cancro al seno per la seconda volta dopo aver sconfitto con successo quello del 2003. Così iniziano le brevi righe sul Facebook ufficiale della cantante, che hanno colpito naturalmente migliaia di fan. Annullati dunque all'istante tutti gli impegni e tour europei, e Anastasia adesso pensa solo alla salute naturalmente e chiede che venga rispettata la privacy. Di conseguenza è stata costretta a cancellare tutti i tour, spettacoli e qualsiasi viaggio da oggi fino a nuova comunicazione. La dichiarazione recita: Anastasia era entusiasta del prossimo tour europeo che doveva iniziare il 6 aprile a Londra. Lei ha detto: sto male al pensiero di deludere tutti i miei incredibili fan che erano in attesa di It's a Man's World Tour. Mi si spezza il cuore solo a deluderli, ha detto. E inoltre Anastasia continuerà comunque la scrittura e la registrazione del suo nuovo album nonostante la sua diagnosi, e spera di programmare un nuovo tour il più presto possibile. Ora più che mai è determinata a mettere in pratica il suo motto, che dice: non lasciare mai che il cancro rubi il meglio di te. Noi facciamo i migliori auguri a questa grandissima artista che non vorremmo assolutamente perdere e che vedremo, spero, al più presto sul palco, insomma in tour, e che riesca veramente a risolvere ancora una volta i problemi di salute. Nel frattempo noi continuiamo con la musica, ancora le vostre segnalazioni al numero 3355637251, numero per gli sms, e questa volta è Roberto che ci segnala questo bellissimo singolo, che ha anch'esso un singolo di punta di questo periodo, insomma uno di quelli che più ci segnalate. Different Fruits. My life is like a wound. I scratch so I can bleed. Regurgitate my words. I write so I can feel. And death grows like a tree that's planted in my chest. Its roots are at my feet. It's funnier from where you're standing, 'cause from over here I miss the joke. Clear the way for my crash landing. I've done it again, another number for your nose. Smiling if I wasn't so desperate. I'd be patient if I had the time. I could stop and answer all of your questions as soon as I find out how I can move from the back of the line. I'll be your clown. Your favorite channel. My life's a circus, circus, round in circles, sailing out

Sa rispondere dopo di me, a bocca chiusa, guarda quanta gente c'è che sa rispondere dopo di me. Sì, anche io so rispondere a bocca chiusa, basta uno sguardo e già si capisce tutto, forse. Bella questa canzone, A bocca chiusa, Daniele Silvestri, molto elegante al Festival di Sanremo di quest'anno, e questa canzone davvero carina. Ok, allora, avete dormito bene questa notte? Mi auguro proprio di sì, è già da un po' di tempo che siete svegli, da un po' di ore, e però mi auguro che comunque abbiate fatto il vostro riposino quotidiano, quello che vi spetta, che insomma almeno superi le sei ore, sette ore, e che non abbiate dormito male, che non abbiate fatto, incubi, insomma. Perché vi dico questo? Perché ridurre le ore di sonno può alterare l'attività di centinaia di geni, che riposare fosse importante per la nostra salute è stato dimostrato da diversi studi. Dormire bene infatti aiuta i bambini a crescere, i grandi a ricordare, ma una nuova ricerca ha scoperto che dormire meno di 6 ore influenza l'attività di 700 geni, non sono pochi. Lo studio condotto dall'University of Surrey ha scoperto che dormire meno di quanto necessario in una settimana mette in difficoltà i nostri geni, e per scoprirlo i ricercatori hanno monitorato l'attività di tutti i geni umani e hanno notato che il sonno insufficiente, ovvero meno di 6 ore a notte, influenza l'attività di oltre 700 geni, e alcuni dei quali deputati al controllo delle infiammazioni e del sistema immunitario. Inoltre, la ricerca ha mostrato che il sonno insufficiente ha ridotto anche il numero di geni che normalmente lavorava nell'arco delle 24 ore. E secondo gli esperti britannici, il numero di geni colpiti dalla mancanza di sonno era 7 volte superiore dopo una settimana di sonno insufficiente. È uno studio da non sottovalutare, visto che la carenza di sonno è legata all'obesità, alle malattie cardiache, al deficit cognitivo, anche se fino ad ora non era chiaro agli scienziati il modo in cui gli schemi di espressione genica venissero modificati dal sonno insufficiente. Questi modelli forniscono importanti indicazioni sui potenziali meccanismi molecolari che collegano il sonno alla salute generale. Quindi attenzione, dormite bene, dormite almeno 6 ore al giorno, non fate gli spavaldi che dite, come me ad esempio, dormire è una perdita di tempo, se potessi non dormirei mai, perché la vita si vive ora per ora, non si deve sprecare niente. Ok, sì, tutto questo va bene, però ci vuole anche il riposo, almeno 6-7 ore al dì per forza, se no qua se ne va in tilt il cervello e non va bene, ok? Intanto se ne va in tilt un'altra cosa, per quanto riguarda la musica, andiamo matti anche per questo singolo che stiamo già sentendo in sottofondo, andiamo in tilt, vero? E sentiamocelo allora, sempre qui su CRM Happy Radio, all'interno di Deja Vu, insieme a America Talano, con voi ancora per circa 35 minuti, ancora c'è un bel po' di tempo per accontentare tutte le segnalazioni che stanno arrivando. Solve it. Hey. Hold up, tell them simmer down. Taking hella long, give it to me now. Make that thing pop like it's in me over nine. Ooh, baby, like it raw with the shimmy, shimmy, yeah, huh? ASAP, get like me. Never met a mother fresh like me. All these motherfuckers wanna dress like me. But the chrome to your dome make you sweat like me. Cause I'm the Nilla, the coochie killer. Like how you figure, getting figures and keeping triller. She rolling switches, bought her chickens. I bought my they getting pinned up off the liquor. She love my licorice, I let her lick it. They say money, make act vigorish. At least he'll figure it. I be humping bras like I'm a humping dog. Turn a chick out, have a humping bars. Peace. I love bad, bad, bad, my problem. And yeah, I like the fuck up problem. I love bad, bad, bad, my problem. And yeah, I like the fuck up problem. I love bad, bad, bad, my problem. And yeah, I like the fuck up problem. If finding somebody real is your problem, bring your girls to the crib, maybe we can solve. Oh, I know you love it when it's this beat is on. Make you think about all of the you've been leading on. Make me think about all of the rappers I've been feeding on. Got a feeling that's the same dudes that we speaking on. Oh word, ain't heard my album, who you sleeping on? You should print the lyrics out and have a read along. Ain't a singer sing along unless you brought the alone. And just, okay, I got it. And just drop down and get your eagle on. Or we can stay up at the stars and put the Beatles on. All the shit you talking about is not up for discussion. I will pay to make it bigger, I don't pay for no reduction. If it's coming from a know that I don't trust it. If you coming from my head, and from my head, and get the bussing. Yes, Lord, I don't really say this often, but this long ain't for the long talking. I beast. I love bad, bad, bad, my problem. And yeah, I like the I got problem. I love bad, bad, bad, my problem. And yeah, I like the I got problem. I love bad, bad, bad, my problem. And yeah, I like the I got problem. If finding somebody real is your problem, bring your girls to the crib, maybe we can solve it. Yeah, ho, this the finale. My pep talk turned into a pep rally. Say she from the hood, but she live inside the valley. Now vacated in Atlanta, then she going back to Cali. Got your girl on my line, world on my line. The irony of f*** at the same damn time. She eyeing me like it don't exist. Girl, I know you want it, dude. Girl, I'm Kendrick Lamar, a.k.a. Benz is to me just a car. That mean your friends is need be up to par. See, my standards are pampered by threesomes tomorrow. Kill them all, dead bodies in the hallway. Don't get involved, listen what the crystal ball say. Holly, Berry, hallelujah, holla back, I'll do ya. Beast. I love bad, bad, bad, my problem. And yeah, I like the I got problem. I love bad, bad, bad, my problem. And yeah, I like the I got problem. Somebody real is your problem. Bring your girls to the crib, maybe we can solve it. Hey. Deja vu su CRM Happy Radio. Deja Vu su CRM Happy Radio. Creazione per Rihanna che abbiamo sentito con Stay, una delle cose più richieste in questo periodo qui a CRM Happy Radio, e questa mattina all'interno di Deja Vu, grazie ad Ilaria appunto che ce l'ha segnalato. E mancano circa 40 minuti? No, che dico, di meno, meno di 20 minuti addirittura alla fine di questo appuntamento. Ai ai ai, siamo vicini, siamo prossimi alla fine anche per questo giovedì. Però per quanto riguarda Rihanna, volevo dirvi che si è di nuovo accoppiata, tra virgolette, con un'altra bellissima, ovvero Kate Moss, le due bellissime, è proprio il caso di dirlo, e super sexy Rihanna e Kate Moss si sono accoppiate di nuovo, come dicevo, per realizzare questo servizio fotografico super hot. E dopo aver posato insieme per Vogue, la mora pop star del Barbados e la bionda top model inglese sono state catturate dall'obiettivo del fotografo peruviano Mario Testino, questa volta per le pagine di Five Magazine. In questi scatti le due appaiono avvinghiate l'una l'altra in lingerie e danno vita a un servizio fotografico altamente erotico, e la stessa Rihanna è stata colpita dal fisico impeccabile della Moss ed è rimasta senza parole quando ha scoperto che Kate ha anche un figlio. Il suo unico commento è stato: quindi c'è ancora speranza per le donne che vogliono avere dei bambini rimanendo comunque sexy. Ma chi l'ha detto che dopo che ho un figlio non può ritornare bella? Ma basta avere un po' di accorgimenti, basta stare un po' attenti, basta non mangiare troppo, basta mettere un po' le cremine e il gioco è fatto. Si possono avere i figli tranquillamente e ritornare anche a essere più belle. E poi al giorno d'oggi, con le tecniche che ci sono, figuriamoci se no non si può. Quindi se per caso in testa vi frulla la cosa che non fate figli perché se no diventate brutte, toglietevelo dalla testa, ok? Anzi, si matura meglio e si ringiovanisce assieme ai figli, ok? Intanto andiamo avanti con il nostro appuntamento. C'è un'altra bellissima cosa di questo periodo che ascoltiamo tantissimo ultimamente. Lui è Max Gazzè e la sentiamo con Sotto Casa. Pronto, chi è? Anzi, chi è al citofono, non al telefono? Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crede lei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi son reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si metta nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Possa la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, e non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi ed immorali di comportamenti frivoli e meschini, quali certi omini in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Si dimostra illuminato dalla grazia della vostra Santa Vergine Maria. Lo chiami pure se ritiene il capo della polizia, ma chi conviene tutta quella paraonda se l'ozono si è ridotta a un colabrodo e basta un solo farabutto a fare in modo che dell'uomo non rimanga neanche l'ombra. E poi ficcatevelo in testa, non si viene al mondo tanto per godere, ma soltanto perché un bene superiore ci ha creati. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Sei lì dentro, non ti muovi ma ti sento, oggi te la cavi sì, ma non finisce qui. In tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Vuoi o non vuoi, questa canzone mette allegria, ha una sonorità che proprio ti fa stare bene. E intanto Max Gazzè riapre le porte per il suo successo con questo lavoro. Sotto Casa si chiama la canzone, per chi non lo sapesse ancora, e siete sempre all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalano con voi sino a mezzogiorno. E vi parlo di una cosa che succede in Belgio: sono stati vietati cellulari giocattolo per bambino. Mi sembra un'idea interessante, devo dire, questa qua, che per ora è attuata soltanto per quanto riguarda il Belgio. Infatti il governo in Belgio si è schierato contro i cellulari e ha lanciato una campagna di prevenzione per limitare l'esposizione alle onde elettromagnetiche dei telefonini e per scongiurare possibili effetti nocivi sulla salute. A tutela dei consumatori, soprattutto bambini e adolescenti, il Ministro della Sanità farà a breve conoscere tutte le direttive e al momento vi è solo il divieto di pubblicità mirata dei cellulari verso i consumatori più giovani, divieto di fabbricazione dei giocattoli che riproducono un telefonino e obbligo per i produttori e venditori di tutti questi qua di informare i clienti sul livello di irradiamento del loro apparecchio e quindi questo ancora soltanto in Belgio. Arriva un'altra canzone bellissima di questo periodo di Ben Pierce, What Am I Do? Ancora buon ascolto. Best off been a friend to me. You don't want the oven, me. Better play it cool. Don't know what I might do. I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. You made me do inside. Look like you're working up an appetite for the night. Yeah, get by then. I just sat at the back, keeping you out the way you act. Keep a string in that. Getting out of line, I'm making you back in your place. All is well and all is cool. Stay in your place. Don't be no fool. We'll get along alright. You look like the type that would drive by. Sapere se l'altra notte quando hai detto che sei stata tanto bene, eri sincero pure avuto solamente una parentesi di un'ora pure scarsa e non mi va di privarmi della calma e farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. Servirebbe sapere la strategia per aggirare tutte quante le barriere, o quale sia la strada giusta per giustificare il male ed alleviare il dispiacere. Mi servirebbe saperlo quanto prima e farmi male, farmi male, farmi male. Farmi male con...

tenerlo in considerazione. È così, si vede dal meteo, insomma, dal continuo mutamento e dalle cose strane che accadono, insomma, con il tempo, appunto. Siamo in conclusione, siamo alla fine di questo programma di oggi con Deja Vu, e chiudiamo in bellezza con questa canzone tormentone di questo periodo, I Follow Rivers, e naturalmente fra poco ci saluteremo definitivamente per quest'oggi. Siamo arrivati alla fine anche per questo appuntamento di oggi, giovedì 28 febbraio. Che dire, come al solito non posso far altro che augurarvi un felice weekend, visto che ci risentiremo la prossima settimana, martedì prossimo. Non mancate, vi aspetto sempre qua puntuali.